Giovanotti, tutto l'amore che ho. Sono le 21.02 e siete sintonizzati sullo 101.9. Questo è Radio Alma e state ascoltando una nuova puntata di I Colori dell'Anima. Stasera con il sottoscritto in regia, Roland Scott-Aubers. Donatella ci ha lasciato e è andata a Torino. E stasera parliamo in radio della radio, molto bello, un mezzo che ha cambiato la vita di molti di noi e non soltanto i DJ di Radio Alma. È una compagna di viaggi fedele, un mezzo che ci fa sognare, assaporare i suoni appieno, indisturbato diciamo da immagini e altro, un mezzo di informazione che resiste alla prova del tempo e anche alla nascita di nuove e più moderne tecnologie, e ne parliamo stasera perché fra due giorni, 13 febbraio 2013, è il World Radio Day, ovvero la giornata mondiale della radio, e abbiamo un ospite che può parlarne con cognizione di causa, Joshua Masserenti, che vi presento dopo il prossimo brano degli Alabama Shakes. Questi sono gli Alabama Shakes su Radio Alma, I Colori dell'Anima. Sono le 21.08 e con me in studio c'è Joshua Masserenti. Buonasera Joshua. Ciao Roland, buonasera a tutti. E parliamo con Joshua stasera di radio in radio, un po' autocelebrativo forse, ma comunque direi vale molto la pena, soprattutto perché vogliamo parlare della radio anche come mezzo non soltanto di informazione, ma qualcosa di più importante, di più profondo, e scoprirete presto perché Joshua Masserenti è un giornalista italo-francese a Bruxelles da 5 anni, giusto? Esatto, esatto, sono qua da 5 anni. E il tuo rapporto con la radio come nasce? Ma nasce all'inizio della mia carriera, per la verità. Io anticipo subito, non sono un giornalista radiofonico, sono molto più specializzato sulla la stampa, oramai anche il web, anche se poi ultimamente sono tornato a fare radio. E però stranamente ho iniziato proprio la mia carriera con la radio, ma circa 18 anni fa, giù di lì, insomma, con Radio Popolare, che insomma gli italiani conoscono bene, una radio libera che era nata negli anni 70, e lì ho fatto i miei primi passi da giornalista, in realtà. Dunque ci andavo una volta alla settimana e partecipavo al giornale radio. Bella. E mi occupavo di notizie estere. Ecco, questo era il mio inizio. È durato, ho fatto, era volontariato, proprio, è durato un paio d'anni, credo, e poi niente, mi sono preso un'altra direzione. Mi sarebbe piaciuto continuare e approfondire con la radio. Poi in realtà la vita ti ha portato su altre strade verso la carta stampata, che all'epoca reggeva ancora, sappiamo, la crisi profonda, esatto, che sta attraversando la carta stampata. Però mentre invece la radio sta andando ancora bene. Esatto, ma l'amore per la radio è rimasto, anche i tuoi contatti con il mondo della radio sono rimasti, e perché? Ma ultimamente, ma io sono sempre quando ero piccolo non ascoltavo la radio, ero più un prodotto della televisione, diciamo. Io seguivo, non ne facevo un consumo esagerato, preciso subito. Sei coraggioso a ammetterlo. Sì, sì, no, lo ammetto, perché a casa non la si ascoltava, a casa mia non si ascoltava la radio. Si andava molto al cinema, si guardava un po' di televisione, si leggeva molto, e molto i giornali. Dunque io sono cresciuto con i giornali sull'informazione. Però è stato da sempre uno strumento che mi affascinava. Ne sono rimasto abbastanza lontano, poi progressivamente mi è piaciuto sempre di più, l'ho veramente scoperta facendo il giornalista, cioè iniziando a fare il giornalista, e poi in realtà l'ho anche cominciato anche a studiarla, perché ho fatto una tesi di laurea su una radio in Ruanda che, insomma, ha avuto un impatto, poi ne parleremo se vuoi più in là, un impatto abbastanza molto negativo a livello di storia, di guerra, e ci sono tornato di recente perché sto collaborando con delle radio africane da 5-6 mesi. E diciamo che hai introdotto la seconda parola chiave di questa serata, che è l'Africa, la tua tesi su Ruanda, la collaborazione con alcune radio africane, ma il tuo legame con l'Africa è ancora più forte di quello. Sì, sono 20-25 anni oramai che... Esatto. Sì. E, vi spiegheremo dopo, ne parleremo più in dettaglio e soprattutto di, diciamo, della radio in Africa e che ruolo che ha giocato, come è diverso anche dalla radio in Europa. Prima però ascoltiamo un altro po' di musica, questa volta direttamente dall'Italia, un bel pezzo di qualche anno addietro, e poi parliamo di quello, la tua esperienza, la radio, l'Africa, ma prima di quello anche una piccola introduzione al mezzo che ha origini italiane. Nessuno mi può giudicare Caterina Caselli su Radio Alma. State ascoltando I Colori dell'Anima, dove si parla di radio, e ancora non vi ho detto come potete raggiungerci. Come sempre è via email icoloridellanima@radioalma.eu oppure il telefono 02 345 2656. E per chi non lo sapesse ancora, potete anche ascoltarci via internet, via radioalma.eu. Dicevamo prima, con me in studio qua c'è Joshua, un giornalista italo-francese, come abbiamo detto, e volevamo un attimo fare qualche riferimento alla storia della radio in generale, perché ha anche origini italiane. Infatti fu uno scienziato italiano, Guglielmo Marconi, che nel 1895, a soli 21 anni, riuscì a trasmettere un segnale in codice Morse a circa 2 chilometri di distanza dalla via di famiglia vicino a Bologna. E, insomma, è lì che nasce diciamo, la storia della radio, che a un certo punto fu ribattezzata il telegrafo senza fili. Non fu però Marconi che riuscì a trasmettere anche i suoni, quello l'onore era del canadese Reginald Fessenden nel 1900 esattamente. Diciamo che poi negli anni 20 inizia a concretizzarsi l'idea di diffondere anche connuti sonori alle masse, e nasce così la radio come mezzo di comunicazione di massa, e il termine tecnico per una diffusione del genere è broadcasting. Infatti tale termine sta per indicare una comunicazione unidirezionale da uno verso molti. Prima di ripassare la parola a Joshua, di correggermi dove vuole o di aggiungere dove lascio dei buchi, è magari interessante dire che è sotto Mussolini, nell'inizio degli anni 20, che si fanno delle politiche per promuovere proprio la radio. Infatti è il ministro Costanzo Ciano che intuì proprio l'enorme potenzialità della radio e la favorì con diversi provvedimenti, e nacque la prima emittente italiana, l'Unione Radiofonica Italiana, che esordì il 6 ottobre 1924. E possiamo anche farvi sentire un pezzettino di quello, almeno lo speravo. Invece credo che questo ve lo dobbiamo tenere per dopo, e passo invece la parola a Joshua. La radio, insomma, gli inizi, però stiamo parlando dell'Europa, in specifico dell'Italia. Facciamo un passettino verso l'Africa. Verso il sud. Verso il sud. E lì come si sviluppa la radio? Beh, più o meno negli stessi anni, cioè la prima emittente radiofonica, adesso se non sbaglio, nasce nel 24, se non erro, in Africa australe, poi si diffonde progressivamente, soprattutto in Africa anglofona. Dunque all'epoca siamo ancora sotto il colonialismo in Africa, suddiviso sostanzialmente tra cinque paesi: Germania, Francia, Regno Unito, Portogallo e Belgio. Il Belgio che deteneva tutta la parte dell'Africa centrale, certo, col Congo, Ruanda e il Burundi, e si diffonde sostanzialmente anche su lungo la costa occidentale, in Africa francofona, dunque l'Africa occidentale. E lì arriva anche le trasmissioni che come dire, vengono trasmesse dalla BBC, dunque da Londra, e nello stesso tempo in Francia da emittenti radiofoniche statali. Dunque erano tutto, cioè all'epoca lo strumento di informazione e di comunicazione era in mano ai colonialisti, naturalmente. Pochi, a differenza di quanto poteva accadere in Europa, dove la radio diventava un strumento di comunicazione di massa, soprattutto sotto, certo, nell'entroguerra, sotto il fascismo e il nazismo. Poi non parliamo di come si stava diffondendo anche oltre oceano negli anni negli Stati Uniti, con le Radio Days degli anni 30-40. Invece in Africa è proprio poca gente che ascolta la radio, quasi quasi si leggono più i giornali, erano più diffusi i giornali come mezzo di comunicazione. Poi insomma con la guerra anche lì ci sono degli stravolgimenti, nel senso che anche tu hai evocato una presa di coscienza, hai citato Ciano, e Mussolini, con una presa di coscienza forte su quanto potesse essere influente a livello propagandistico o al servizio della propaganda la radio. La stessa cosa succede in Africa, perché le nazioni che sono in guerra tra di loro, dunque Francia, Regno Unito da un lato, Italia, Germania dall'altra, cominciano a farsi una guerra di comunicazione vera e propria anche in Africa. E chi ascolta in quei tempi la radio? Ma diciamo che sono o i coloni stessi, cioè i bianchi, i bianchi, oppure perché la radio era uno strumento all'epoca ancora molto costoso, oppure una cerchia ristretta di africani che erano stati i primi ad accedere all'educazione. Dunque questo, però parliamo di un'elite. L'esplosione del mezzo di comunicazione, che diventa un mezzo di comunicazione di massa, questo avviene dopo il secondo dopoguerra e soprattutto dopo l'epoca delle indipendenze negli anni 60-70, con la diffusione del transistor e l'abbassamento ovviamente dei costi, ecco, dello strumento radiofonico stesso. Bravo. Io direi che abbiamo fatto già un bel passo avanti nella storia della radio, siamo arrivati a parlare già dei tempi dell'indipendenza, anni 60. Forse è ora di ascoltare un bel brano africano di un cantante che a me piace molto, Freddy Massamba, che viene da Congo Brazzaville, spesso però qui in Belgio, ve lo consiglio molto, e ascoltiamo un suo brano per poi tornare qui in studio con Joshua. Freddy Massamba, Lobalanga, qui su Radio Alma, I colori dell'anima, dove stiamo parlando della radio con Joshua, e infatti stiamo parlando proprio della radio in Africa e come si è evoluta, e come soprattutto all'inizio era proprio un mezzo di propaganda che le varie parti provavano a utilizzare a proprio favore. Poi diciamo, tu hai studiato nello specifico il caso del Ruanda nel 94, tempi del genocidio degli Hutu sugli Tutsi. Sì, che è il caso più noto tra chi conosce l'Africa, ovviamente, e come dire, è un buon esempio di quello che proprio non bisogna fare, diciamo, no? Cioè le come uno strumento di comunicazione di massa che alla fine degli anni Ottanta, dunque giusto per contestualizzare, alla fine degli anni Ottanta cade il muro di Berlino e in Africa c'è un vento di democrazia che sta che abbatte tutta una serie di regimi autoritari, un po' come gli stessi fenomeni che abbiamo visto in maniera forse meno violenta, però insomma, di quello che abbiamo visto durante la primavera araba, anche lì ondate di contestazioni del regime di partito unico che si era installato per più di 30-40 anni, di 30 anni sul continente africano, e dunque di pari passo con la nascita dei partiti di opposizione, dei primi partiti di opposizione, dunque a cavallo tra fine anni 80 e inizio anni 90, nascono anche le prime radio libere, le prime radio indipendenti, perché la radio era sotto il monopolio dello Stato, cioè di chi stava al potere, cioè non c'era nessuno di fronte, dunque c'era solo la voce del partito unico che monopolizzava tutto il potere in quasi tutti i paesi africani, magari delle pochissime eccezioni, ma la stragrande maggioranza dei paesi africani erano sotto questo tipo di regime politico. Il Ruanda prende, se abbiamo dei casi positivi come il Senegal, pensiamo anche al Kenya o anche alla Nigeria, dunque abbiamo lì la nascita e l'affermazione di radio professionali, e questo è molto importante perché il passaggio dei giornalisti alla professionalizzazione è molto problematica in Africa. Invece c'è proprio il caso opposto del Ruanda, in cui in un contesto molto difficile di transizione democratica si afferma, mettiamola così, nel 93 per riassumere, una radio che avrà un ruolo secondo la giustizia internazionale, perché poi dei giornalisti saranno incarcerati e processati, sarà stato un processo storico che si è svolto all'Aia alla fine degli anni 90, inizio dei 2000, e lì nasce questa radio nel 93 che avrà appunto un ruolo decisivo nei massacri del 94, cioè in Ruanda tra l'aprile e giugno del 94 avviene il primo genocidio africano, cioè il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano di estremisti dell'etnia Hutu, per sintetizzare. E lì c'era questa radio che incitava proprio all'odio razziale. Dunque, allora, ma era tutta la tecnica che era interessante, cioè loro, tra l'altro una curiosità, era una radio privata fondata da uomini d'affari, associate a dei giornalisti che lavoravano per la radio di Stato, ma questo manipolo, che era molto legato a una cerchia di politici estremisti Hutu, considerava la radio di Stato non abbastanza dura con i Tutsi. Dunque l'hanno creato questa radio proprio per accelerare le politiche anti-Tutsi che si stavano concretizzando in Ruanda in quel periodo. Piccola curiosità, in questa radio c'era un italo-belga, un tale Georges Ruggiu, che tra l'altro vive attualmente, è nato a Verviers, è tornato a Verviers nel 2011, era un italo-belga di origine sarde, lui è nato e cresciuto in Belgio, a Bruxelles, e paradosso lui si occupava di sociale, lui era uno molto impegnato nel sociale, poi è sceso in Ruanda alla fine degli anni 80, inizio anni 90, e è la storia singolare di un bianco che andava giù per fare del bene e ha finito per fare solo disastri, tant'è che lui aveva una trasmissione nella radio, di questo, chiamava per ricordare ai vostri radioascoltatori che probabilmente non conoscono questa radio, si chiamava la radio televisione delle Mille Colline, Mille Colline perché era il soprannome che si dava a Ruanda, che è un paese molto collinoso. E dunque la singolarità di questa radio, loro sono riusciti a conquistare l'audience con la musica, cioè i loro messaggi di odio razziali lo facevano attraverso dei programmi musicali e anche dei programmi tra virgolette comici, cioè loro erano riusciti ad avere l'appiglio sui ruandesi, sull'audience, attraverso dei giochi di parole, delle boutade, delle barzellette, e così piano piano sono riusciti a conquistare delle fette di mercato locale, di audience, per poi arrivare alla tragedia che Ruanda ha conosciuto nel 94. Giusto per chiudere, perché questa è una storia abbastanza singolare, i principali giornalisti di questa radio sono stati arrestati e trascinati presso il Tribunale Penale Internazionale, non all'Aia ma ad Arusha in Kenya, perché lì c'è la sede di questo tribunale ad hoc, se vogliamo, che è stato instaurato dalla giustizia internazionale ma solo per il Ruanda. E nel 2003 c'è stata una sentenza storica, per la prima volta dei giornalisti sono stati condannati per aver compiuto, secondo il giudice che ha emesso la sentenza, dei veri e propri crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità. E dunque questo Ruggiu ha fatto 12 anni di carcere, è stato liberato, passato, scontato la fine della pena in Italia e nel 2011 è tornato in Belgio. La sua pena è stata ridotta perché in realtà ha ammesso subito le sue colpe, invece 3 compari ruandesi hanno sempre negato il loro coinvolgimento, hanno preso 35 anni di carcere a testa. Grazie Joshua di averci introdotto in questa, diciamo, un po' della storia, cioè negativa della radio, pesante, Africa, sì. Molto pesante, per poi ovviamente questo fa da preludio per poter parlare anche di esempi più positivi, altrettanto importanti, perché alla fine vi ricordiamo, stiamo anche parlando della giornata mondiale della radio che si celebrerà fra 2 giorni, 13 gennaio, per diciamo cantare un po' le lodi di questo mezzo. Cioè, non volevo fare pubblicità negativa, esatto, cioè, questo qua è un caso eccezionale, esatto, anche in Africa, anche se è successo, sono verificati altri episodi di questo genere, ma non di quel livello, di questa entità, ma nella stragrande maggioranza dei casi, ricordiamolo, la radio è il mezzo di comunicazione più importante ancora oggi in Africa, nonostante l'avvento di internet, dei social media, la presenza della televisione, anche televisione via satellite che sta diffondendo a macchia d'olio in Africa, la radio rimane il mezzo di comunicazione numero uno e, se vogliamo così dire, il più apprezzato sul continente africano, e penso non solo. Anche se non trovi le parole, per fortuna nostra Joshua Massarenti stasera le trova per parlarci della radio in Africa. Grazie di essere con noi, Joshua, su Radio Alma, I colori dell'anima, lo state ascoltando ogni lunedì sera dalle 21 alle 22, come sapete, anche da ascoltare in linea via radioalma.eu, e ci potete contattare via email icoloridellanima@gmail.com o telefono 02 345 2656. Joshua, abbiamo parlato del Ruanda, è un caso negativo, un negativo esempio della radio, invece vogliamo parlare di un esempio molto positivo della radio, di cui tu hai parlato. Diciamo, su cui tu hai fatto un servizio un po' di tempo fa. Raccontaci, sì, magari cominciando a darci un po' di contesto, come hai fatto prima, per poi parlare del caso concreto del Congo e la radio OKP. Dunque abbiamo evocato, sì, l'esempio negativo. Gli esempi positivi ce ne sono tantissimi. Quello che mi viene in mente, in realtà il prima di cui stiamo parlando, poco prima durante l'intermezzo, è questa radio che nasce in Congo, anche lì in un contesto forse ancora più drammatico di quello che sussisteva in Ruanda all'inizio degli anni 90, perché lì siamo in piena guerra, anzi all'epoca la chiamavano la prima guerra mondiale africana, perché erano coinvolte 7 nazioni africane, eserciti, gruppi ribelli che nascevano e morivano tra un giorno e un altro. Ricordiamo la guerra congolese che si protrae dal 97 fino al 2004-5, poi vediamo ancora oggi delle conseguenze purtroppo nell'est del paese. Avrebbe fatto, secondo le Nazioni Unite, più di 3 milioni e mezzo di morti, questo per dare un'idea. Al termine del periodo più brutto, diciamo, perché nel 2003 poi vengono sanciti e sottoscritti degli accordi di transizione di pace tra le parti in conflitto, le Nazioni Unite decidono di creare una radio in collaborazione con un'ONG che era diventata abbastanza famosa in questo giro umanitario, diciamo, per creare delle radio in fase post-conflitto, cioè subito al termine di un conflitto armato. Questa fondazione, che è basata a Losanna in Svizzera, si chiama Fondazione Rondel, e hanno messo in piedi, credo, tra l'altro il loro primo progetto era subito dopo il genocidio ruandese, hanno fatto una decina di progetti radiofonici, e probabilmente il più famoso è questa radio OKP, che è un animale molto famoso in Congo. E diciamo la singolarità, cioè il primo obiettivo di questa radio era proprio una radio al servizio della pace, cioè riappacificare le anime e gli animi. Ecco, perché poi dobbiamo ricordare il Congo, grande quasi allora, come un continente. Bisogna rendersi conto che all'epoca non c'era mai stata una radio, definiamola così, indipendente. Ci sono delle radio indipendenti con una miriade, centinaia, però nessuna era in grado di coprire tutto il territorio, che è l'equivalente dell'Europa occidentale, per darci un'idea della grandezza del territorio congolese. Loro sono stati i primi a mettere in piedi una stazione radio, un'emittente radiofonica con la sede centrale a Kinshasa, comunque la parte, l'estremità occidentale del paese, che riusciva a trasmettere fino all'altra parte del Congo, e dunque abbracciava proprio tutto il paese, il che ha impressionato tantissimo i congolesi, perché per la prima volta avevano a che fare con una radio, diciamo così, al loro ascolto, perché loro erano molto attenti a anche denunciare le violazioni dei diritti umani, e non solo gli aspetti negativi, parlavano anche di storie positive, e l'apporto fondamentale, cioè, mentre il caso della radio ruandese è stata una radio che ha diviso una società, questo è l'esempio di una radio che ha riunificato un paese, una nazione, che si è riconosciuta come dire, nei programmi che trasmetteva e che trasmette tuttora questa radio. Io la conosco bene perché ci ho dedicato un servizio, perché io sono stato in Congo nel 2005, 2005-2006, e ho fatto all'epoca un servizio per un supplemento di Repubblica, quotidiano nazionale italiano, e all'epoca ho toccato con mano questa realtà, cioè io semplicemente avevo degli amici che ci lavoravano, li sentivo regolarmente perché durante la mia attività giornalistica da Milano scrivo dei pezzi sul Congo, e quando dovevo scrivere sul Congo io contattavo giornalisti o gente di questa ONG svizzera. Invece lì ho avuto l'opportunità di visitare una loro stazione radiofonica che stava nel Kivu, dunque la parte più calda del Congo, alla frontiera con il Ruanda e il Burundi, dove lì c'è ancora un conflitto in corso, e poi sono andato alla sede centrale di Kinshasa e devo dire ho incontrato intanto dei giornalisti di primissimo ordine, veramente di ottimo livello, cioè molto qualificati, pagati come deve essere pagato un giornalista, perché questo è uno dei grossi problemi della radio, ma non solo, dei media in generale in Africa, che i giornalisti sono sottopagati, cioè c'è gente che non arriva a fine mese facendo sto mestiere. Dunque uno dei problemi più grandi è che, ad esempio, nelle interviste è noto purtroppo che in alcuni casi il giornalista viene pagato dall'intervistato. Invece lì diciamo che lì è chiaro, con i soldi con i fondi delle Nazioni Unite e di altri donatori internazionali ci sono tuttora tutte le condizioni per creare per mettere in piedi una radio con dei giornalisti professionisti e professionalizzati, però dei giornalisti anche, che vorrei ricordare, coraggiosi. Cioè io ho sentito delle storie assolutamente incredibili, cioè, sì, perché poi mi chiedo, ecco, è ancora tutto oggi comunque un paese molto difficile, che rimane un paese disastrato, e mi rendo conto che, cioè, deve essere difficilissimo di creare questo senso unitario, di comunicare in modo positivo, cioè di tenere la speranza, cioè come si fa? Lì hanno dovuto un po'. Credo che hanno trovato una via di mezzo. Cioè, da un lato non possono ignorare la realtà del terreno, dunque, che è una realtà spesso problematica. Però dall'altro lato sono resi conto che non potevano limitarsi solo a questo tipo di informazione. Sì. Poi probabilmente c'è una. Come dire, io lo sentivo quando intervistavo questi giornalisti, che c'era anche il desiderio di dare ai propri ascoltatori un'altra immagine del paese. Sì. Un'altra immagine del paese. Dunque, faccio un esempio, un radioascoltatore che si trova, per fare un equivalente, a Malaga, immaginiamo che l'Europa occidentale faccia solo un paese, un radioascoltatore che vive a Malaga e che vive un conflitto armato larvato, intenso, da 10 anni, riceve delle informazioni da altre zone del paese in cui la situazione evolve in maniera positiva. E questo ha avuto un impatto molto importante a livello psicologico. Sì. Già prima di essere un, tra virgolette, un ricevitore di informazione, è anche l'aspetto psicologico che è fondamentale. Dunque loro ci tenevano a che fosse anche una radio nazionale, proprio per far capire a delle parti del paese completamente isolate che c'erano altre zone del paese che andavano avanti e che non dimenticavano al contempo zone invece, sì, quelle più martoriate, diciamo, perché c'è una solidarietà anche tra regioni, diciamo, no? Oppure un radioascoltatore ha la sensazione che il potere centrale qualcosa sta facendo per la propria area, la provincia, il paese, la provincia o la città, anche se poi sul terreno vede che la situazione rimane complicata, però loro ci tenevano a fare un misto tra informazioni, definiamole così, negative, con invece storie positive. Che potessero incoraggiare la nazione congolese e i congolesi, i cittadini congolesi stessi. Ecco, e vorrei ricordare ai gli ascoltatori, o anzi suggerirgli, che un libro molto bello che so anche tu hai letto, io l'ho letto di recente durante il periodo di Natale, mi sa che sono 700 pagine più, il libro si chiama Congo di David van Reybrouck, un belga, c'è la versione francese anche, e anche l'inglese, non so se è già uscito in italiano. Non mi risulta, ecco, allora, curioso, ma non ancora, ma penso che bisogna scegliere tra inglese, vale, francese tradurre, o olandese, e che racconta tutta la storia del DRC prima del colonialismo, il periodo coloniale, post-coloniale, dittatura di Mobutu, e poi insomma fino al 2010, anche attraverso molte interviste con personaggi straordinari. Personaggi straordinari, che veramente è un libro che mi è piaciuto molto, e se vi interessa questo che vi sta raccontando Josh, volete saperne di più di questo grande paese che è quasi un continente, vi suggerisco questo libro Congo. Noi torniamo da voi, sono già le 21:49, ascoltiamo un grande africano di un'altra zona, dal Mali, viene Salif Keita, e dopo di lui torniamo con voi in studio qui con Joshua e il sottoscritto Roland. Un po' di Africa sul 101.9, Salif Keita qui su Radio Alma, I colori dell'anima. Sono in studio con Joshua e parliamo della radio in Africa in occasione del World Radio Day del 13 febbraio. Abbiamo parlato della radio OKP in Congo, e invece, visto che siamo in conclusione, vogliamo parlare un po' della radio e il suo ruolo che avrà nel futuro del continente africano, forse anche qui. Cioè, tu come lo vedi il mezzo radiofonico nell'avvenire? Ma il mezzo radiofonico, sai, in maniera ricorrente lo si dà sempre per morto. Cioè, quando c'è stato l'avvento della televisione si annunciava la morte della radio, e invece la radio è sopravvissuta. Carta stampata uguale prima dell'avvento della televisione, poi successivamente con l'avvento del web. E abbiamo visto che invece non è affatto così, anzi oggi la radio, anche se c'è una grossa crisi in Occidente del mercato pubblicitario, è un mezzo che sta abbastanza bene tutto sommato. Sì, sono dei tagli di giornalisti eccetera, in particolar modo nei paesi ricchi, e questo è un problema molto serio, però è un mezzo di comunicazione che ha ancora un ruolo da giocare in futuro. Certo, sta cambiando completamente il rapporto tra qualsiasi mezzo di comunicazione di massa e il lettore o il radioascoltatore o chi guarda la televisione. In che modo? Come si evolve questa relazione? Ma perché con l'avvento del web e poi con l'avvento dei social media, diciamo che chi sopravvive, io mi ricordo, per tornare sull'Africa, ho fatto un'intervista che a me è piaciuto parecchio a un responsabile di media africani, anche un imprenditore che si chiama Ibrahim Matarba. E lui, ad esempio, mi diceva che chi sopravviverà nel panorama mass mediatico africano è chi saprà, come dire, tirare in ballo i suoi lettori, i suoi radioascoltatori, cioè l'interattività. Questo è, come dire, la parola chiave per, credo, oggi qualsiasi mezzo di informazione. Lo vedremo tra non poco con l'avvento anche di Google nel mondo della televisione, in cui l'interattività sarà molto un elemento chiave del mondo dell'informazione. E ci sono già degli esempi in Africa di questo tipo di interattività nel mondo della radio? Allora, al di là io non mi sto riferendo, interattività ci sarebbe già, vuol dire, dei radioascoltatori che chiamano durante una trasmissione, non è tanto questo. Quasi vediamo apparire sempre di più in Africa proprio delle radio di servizio, cioè delle radio che non offrono solamente informazioni, perché di questo non si vive più purtroppo, ma che diventano anche radio di servizio. Penso a un caso in Ghana in cui c'è questa radio che ha creato una piattaforma web in cui delle trasmissioni sono regolarmente alimentate tramite questa piattaforma, in cui i radioascoltatori possono aggiornare questa piattaforma, perché poi non dimentichiamo l'avvento del mobile. Questa è una cosa che non avevo passato sotto silenzio, ma è fondamentale. Cioè, ci sono più di 700 milioni di mobile in Africa attualmente. Sì. Cioè, nel 2013 arriviamo a 700 milioni.